Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Estate 2024, oltre che caldissima, qua abbiamo tra l'altro un ospite che poi ospite è di casa per Radio Città Fujiko, anche lei tifosa dell'estate, una supporter della bella stagione, per cui ne sono maggiormente contento. Comunque a tra poco in diretta, intanto due parole di introduzione per questo Last Minute a proposito di un appuntamento arrivato alla settima edizione femminologica, già dal titolo la rassegna di teatro civile al femminile. È già iniziata il 29 agosto, però perché Last Minute? Perché gli appuntamenti saranno fino al 19 settembre, di cui uno esattamente questa sera, quindi un Last Minute al Breakfast Club, dove protagonista è la nostra Simona Sagone. Buongiorno Simona! Buongiorno! Allora, ti è piaciuta la presentazione di supporter dell'estate? Meraviglioso! Sì. Ci deve essere, come dico io, il sole anche di notte quest'anno. Grande! Giornate lunghissime, nonostante la stagione, abbiamo però un'estate di cui non ci possiamo di certo lamentare e a quanto pare, Simona, anche per i tuoi appuntamenti, facendo tutti gli scongiuri, pare che insomma abbiamo la possibilità di assistere in una sede molto suggestiva che è l'anfiteatro del parco di Villa Spada, l'ingresso al parco di via Casaglia 1/7, intanto settima come le edizioni di Femminologica, ma indicazioni logistiche le daremo tra pochissimo. Intanto questa sera abbiamo un appuntamento di cui ci daremo presentazione assieme con Simona, direttrice artistica di Femminologica, però facciamo anche una piccola anticipazione di presentazione per quanto riguarda la rassegna stessa, che come ho detto già dal nome è abbastanza chiara. Ci puoi dire qualcosa di più, Simone? Certo, allora la rassegna vuole intanto promuovere e salvaguardare il monumento alle 128 cadute partigiane di Villa Spada, di cui fa parte l'anfiteatro ove ha luogo la rassegna, ma soprattutto vuole sollecitare attraverso l'arte, gli spettacoli, anche gli incontri che facciamo, una presa d'atto che esiste un problema di disuguaglianze tra uomini e donne, persistono stereotipi, gabbie di genere e lo potremmo riassumere come il patriarcato, e c'è un modo differente di vedere il mondo, quello delle donne, che vorremmo sottrarlo alla sua marginalità e proporlo come nuova centralità e cambiare il modo di pensare, e si può farlo attraverso delle riflessioni che proponiamo anche attraverso gli spettacoli. Questo un po' è la ragione della rassegna, e per questo viene sostenuta anche dalla regione, da Bologna Estate e da Città Metropolitana e dal piano per l'uguaglianza. Quindi abbiamo attrici, registe, cantanti, danzatrici, drammaturghe, per rendere omaggio appunto alle cadute durante la guerra di liberazione dal nazifascismo e al contempo raccogliere il testimone delle resistenti di allora, come un passaggio di generazioni che continuano a lottare per i diritti attraverso il filo conduttore dell'arte e dell'espressione artistica. È già iniziato, è stato il 29 agosto, però questa sera abbiamo un altro appuntamento, appuntamenti tra spettacoli e motivi d'incontro. Intanto vado ad aggiungere per completare la presentazione. A questo punto, questa sera cosa troveremo al parco di Villa Spada, Simona? Oggi una serata particolare perché sarà a microfono aperto e a offerta libera. Alle 19 ci sarà un dibattito, una politica per tutte, a cui parteciperà Simone Lembi, che è responsabile del piano per l'uguaglianza, Katia Graziosi di Udi e Giusy Marcante di Orlando, e discuteremo, grazie alla giornalista Laura Branca, che ha scritto il manifesto Una politica per tutte, discuteremo di come sia possibile attuare delle leggi che siano appunto per tutte, per cambiare la mentalità, fare politiche a favore delle donne, per perseguire l'obiettivo anche 5 della Agenda 2030, per promuovere l'empowerment di donne e ragazze verso un'uguaglianza e per la libertà di scelta sul proprio corpo. Dopodiché a seguire faremo una maratona di lettura, appunto a microfono aperto, chiunque, uomini e donne, invitiamo soprattutto anche gli uomini. Sì, infatti precisiamo questo. Okay. Non è una cosa, il femminismo non è una cosa per le donne, ma insomma, chiamiamo a raccolta gli uomini, perché il femminismo è per tutti, come dice Belloux. E quindi abbiamo bisogno degli uomini a questa rassegna. E microfono aperto per leggere delle pagine interessanti di autrici o anche loro riflessioni sui temi appunto di cui parliamo. E verrà puntellata da noi, da me, da Mirko Mungari, con alcune canzoni femministe qua e là. Beh, bella questa cosa che hai detto di lavorare insieme, questo è un motivo di aggregazione che va oltre il genere, che dà un'attenzione chiaramente e ci mancherebbe, ma che ha non certo un motivo di divisione, anzi di unione ulteriore per determinati concetti e determinati aspetti. Poi questo a livello di incontro e di dibattito nell'immediato, per quanto è l'aspetto di questa sera, mentre invece ho letto che il 6 settembre ci sarà una giornata dedicata alla figura di Fedra, quindi esatto. Andiamo nella classicità. Ah sì, quest'anno lo propongo, l'anno scorso è stata Angela Malfittano, gli anni scorsi a presentare figure di eroine femminili, quest'anno tocca a me come Yucali fare Fedra, però è un testo contemporaneo di Marie Claboggio. E alle 21, quindi saremo in scena con Mirko Mungari e Davide Fasulo, i miei musicisti, ci sarà tutto Lives Electronics per sonorizzare questa Fedra che nella mia testa era nata come regia radiofonica, che però non ho mai realizzato, chissà di non farlo, per Radio Città Fujiko, e adesso l'abbiamo messa in scena. Qui è tutta una Fedra dentro la testa di Fedra. E tutti i personaggi sono dentro la sua testa, è lei che tutto nel suo pensiero, nel suo sentimento, immagina di dialogare con tutti questi interlocutori che sono nella sua testa. È un ripide Seneca d'annunzio, insomma, veramente è un aspetto che va oltre tutti i tempi. E ricordiamo anche l'associazione Yucali, per quanto riguarda l'organizzazione e femminologica, di cui direttrice artistica è Simona Sagone, e sarà fino al 19 settembre. Okay, sì. Questo... Dopo la serata del 6 sarà introdotta da Alessandro Iannucci, un professore di beni culturali dell'Università di Bologna, proprio per introdurre la figura di Fedra, e poi andiamo al 10 settembre, ci sarà in scena la mia maestra con uno spettacolo La fine di tutte le cose, e Alessandra Frabetti porta in scena questo testo di Alessandra Schiavoni, è un testo sulla solitudine delle donne d'età. Questa donna che ha paura di essere dimenticata in una corsia d'ospedale da sola mentre cerca di telefonare disperatamente alla figlia per mettersi in contatto con lei, e quindi prima introdurremo lo spettacolo con un talk con Lalla Golfarelli sul welfare per le donne d'età. Quale welfare per le donne d'età? E intanto, certo, per quanto riguarda il procedere, scusa se ti ho interrotto, sì. Facciamo che ci risentiamo, ti riporto a un'alza taccia. Simona, sei contenta? Sono contentissima, perché la cosa è ancora lunga. No, infatti, no, certo, però allora, siccome non vogliamo, intanto diamo indicazione su come consultare il programma più comodamente, ovviamente ci saranno piattaforme per avere un'informazione completa e estesa. Ci puoi dire qualcosa di più, Simo? www.yucali.it, il nostro sito, oppure su Facebook o Instagram cercano Associazione Culturale Yucali su Facebook, oppure Yucali Cultura su Instagram. C'è il programma, ci sono tutti gli eventi singoli con tutte le indicazioni per partecipare, i costi dei biglietti, tutte le indicazioni, insomma, per arrivare al parco di Villa Spada. Sì, al nostro abbastanza, è semplice. Intanto è anche molto bello, tra l'altro. Sì, e diciamo però che se dovesse piovere abbiamo un luogo alternativo al chiuso, quindi se prenotano li avvisiamo con un bel messaggio che spostiamo tutto al chiuso al centro costa. Abbiamo terminato al 10 settembre, ricordiamo che sarà un progetto che arriverà fino al 19 settembre, per cui per quanto riguarda gli appuntamenti dal 13 al 19, io ti convoco per una prossima puntata, ok? Perfetto, intanto perfetto, così rinfreschiamo la memoria alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Breakfast Club, e tra l'altro anche il file per riascoltare il format del Last Minute sarà riproposto e diffuso con Radio Città Fujiko e Breakfast Club. Intanto io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata, un buon percorso d'estate ed una buona colazione. Grazie Simona. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ngana mani ngana ye. Ngana mani ngana ye. Ngana mani ngana ye. Suri jugu ma misiri jugu ma. Sanno ni wari di jugo ma ma tono ti jugo fa Oggi ho portato Africa, un po' di sonorità. Prima abbiamo ascoltato Tinariwen, il popolo berbero, dal loro lavoro che nella lettura delle prime pagine è intervallato tra una notizia e l'altra. Ora siamo in Mali con un'artista veramente molto talentuosa. Avevo smarrito un paio dei suoi dischi ieri nel mobilone dei CD, mi sono messo di buona lena e ci mancherebbe, e ho ritrovato i dischi in mio possesso di Rokia Troare, di cui stiamo ascoltando un brano che ci porterà alla pubblicità e poi si ritorna con il Move to Groove. A tra poco. bacia ma su, ani bacia ma su.